Zot. Fulminati in azienda. Allora Marta, come sai, siamo nel pieno di una rivoluzione organizzativa. Certo. Ma non possiamo dirti nulla perché nessuno saprà nulla, nessuno, sì? Fino a che non escono le disposizioni organizzative venerdì sera alle 18. Venerdì sera? Ma non mi fate aspettare fino a venerdì, non sono nata ieri, lo so, lo sento che c'è qualcosa che mi riguarda. Vabbè, dai, schedula, Marta è Marta, lei possiamo anche dirlo. Allora, diciamo, in fondo è una buona notizia. Allora, Marta, come sai, abbiamo creato questa nuova direzione. Oh. Il post schedula, diglielo tu. Post Merchandising Marketing and Innovative Solution for European Market. Ma che bel nome lungo, ma allora deve essere molto importante. Però non possiamo, non mi pare il caso di dire tutto, sennò qua è il silenzio, schedula, silenzio. Non trapelerà nulla come al solito. Marta, abbiamo affidato a te questa nuova prestigiosa direzione. A me? Ma è una splendida notizia, grazie. Ma allora dovrò subito fare dei nuovi bigliettini da visita con questo nome. Sì, ma Marta, non ci devi ringraziare, è che sei brava. Oh, che bello, ma devo subito andare a dirlo a tutti. No, così io sono tutta l'azienda prima di venerdì, no! Ma sì, schedula, un po' di sana ansia per tutti, dai, aumenta la competizione interna e il business decolla! Vieni qui, Che c'è giusto? C'è giusto una cosina delicatissima da fare. E chi se non il nostro uomo più fidato? Sì, vabbè, ho capito, un'altra fregatura. Ma no, è un'opportunità, sii ottimista, Centri. Devi che solo dire alla Font che si deve spostare dalla sede centrale a Torpagnotta. No, ma che una sede prefabbricata, quella che dà sui campi nomadi fuori città, non accetterà mai, non lo faccio, vedi? Manco lo vedi, morto. Io lo sapevo, neanche Centri è disposto a dirglielo, ma come facciamo adesso? Questa è una missione impossibile, andrei incontro a una morte certa. Ma come siete esagerati, ma cosa sarà mai? E poi comunque la decisione organizzativa è presa, bisogna solo capire come implementarla. Vabbè, allora guarda, se è deciso, bisogna agire d'astuzia, agirà all'ostacolo e fargli trovare il fatto compiuto. Hai ragione, bravo Centri. FC, fatto compiuto. Voi ragazzi, ma cos'è sto silenzio in azienda? Sembra di essere al cimitero monumentale. È successo, Marco, è successo ma quello che avevamo temuto. Ma che cosa tenuto. È successo? Stamattina la Fonte è arrivata in sede. Ha detto le segretarie, ha avuto una crisi isterica. Adesso sta dalla guardia medica e sta nella riunione. Ma pensa a te, dai, ma ieri sera era andato tutto così bene. Mi ha fatto il brindisi, l'investitura, l'annuncio ufficiale. Marco, Marta, vieni qui. Questo non me lo dovevi fare. Ma che cosa, Marta? Ma ti abbiamo dato la nuova direzione. Ma che stamattina sono arrivata qui in sede. Non ho più trovato il mio ufficio. Ma no. Mi hanno rimosso le pareti. Ma no, è che adesso è una nuova sede, Marta. Stai zitta tu. Anche la Kenzie era triste lì, abbandonata in un open space. Se volete che io me ne vado, ditemelo. Marta, il fatto è che la nuova direzione, la tua direzione, è a Torpagnotta. A Torpagnotta? Ma che volgarità, ma io non ci vado neanche morta, grigio, sperduto, deprimente, le mura sono color mal di pancia. No, ho capito, Marta, non posso andare. E allora cosa facciamo? Non lo so cosa facciamo. Se permettete, scusate, ci avrei io un'idea. Dai, Centri, dillo. Ma perché non cancellate sta nuova struttura? Come si chiama? Air Post Marketing? Post Merchandising Marketing and Innovative Solution for European Market. Esatto, ecco, brava. La cancelliamo, tanto mi pare pure inutile. Così la Font se ne sta nel suo vecchio ufficio e soprattutto finisce sta tragedia e non se ne può più, guarda. Certo, però il nome suonava così bene. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.